calcio ad un pallone, mi viene voglia sì, butto via il maglione sulla fascia laterale. Gioco di solito, ma oggi cambio schema. Passami la palla, amore, tento di sfondare la difesa e guadagno qualche metro. Davanti ho solo lui, eroe dell'area. E segnerò come un campione, oh mio amor, un grande gol come alla televisione. Esulterò come un campione sul campo immensamente mio. Manca poco, dai, allo scadere. Sono lì, va attraverso le c'è Pippo che va, lui di testa sì che ci sa fare. Dai, siamo vicini, possiamo.